Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Si ritorna in diretta dagli studi di Via Zanardi con Radio Città Fujiko, il Breakfast Club, in uno spazio last minute che porta una colazione in anticipo a proposito di rubrica in scena che sarà poi protagonista domani. Il last minute comprende appuntamenti in weekend, residenze creative a Dom, laminarie Dom, le cupole dal pilastro, e con noi a proposito di buona colazione mattiniera Bruna Gambarelli, al quale do il buongiorno. Buongiorno Bruna. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie per questa levataccia, poi insomma sono già le 7.48, dai, non esageriamo. No, non è così presto. Non è così presto, esattamente. Allora, abbiamo parlato di residenze creative per darne così un accenno. Possiamo approfondire un pochettino il weekend, dal 20 al 23 giugno, quindi già da questa sera, un weekend che parte un po' prima ma che sarà intenso di appuntamenti. Già dal filo conduttore che è osare, mi piace molto questo filo conduttore, ci puoi dire qualcosa di più Bruna? Certo, questi tre giorni diciamo di aperture al pubblico iniziano proprio questa sera, perché alle 21 nell'ambito appunto di questa piccola rassegna che abbiamo voluto chiamare Osare, ci sarà, avremo così il piacere di ospitare un ensemble di archi del Teatro Comunale di Bologna che presenterà al pubblico musiche composte da Stefano Pilia e realizzate per il film prodotto da Lab Film con la regia di Roberto Beani su Rione Pilastro, al quale stiamo lavorando ormai da diversi anni e che è in via di conclusione. Nel pomeriggio registreremo le musiche e alle 21 apriremo al pubblico per così dare la possibilità ai cittadini e cittadine di ascoltare in anteprima le musiche che poi comporranno la colonna sonora del film. A seguire, dopo una brevissima pausa, abbiamo un lavoro molto interessante di Mirella Mastronardi sul tema dell'Inquisizione. Mirella ha realizzato il lavoro ad Om dopo una residenza, così come il 23 di giugno Elena Galeotti presenterà anche lei per la prima volta al pubblico il suo lavoro realizzato in residenza ad Om. E quindi appuntamento eterogeneo che va dalla musica al cinema, anticipazioni, teatro, un laboratorio che si è esteso in diverse espressioni, Bruna. Certo, sì, abbiamo appunto come di consueto, come fa parte della vocazione della poetica di Dom, non solo appunto si attraversano diversi linguaggi, ma anche si offrono, diciamo, per la prima volta al pubblico la possibilità di vedere lavori che sono ancora in costruzione, e questa è la cosa interessante di questo osare, sì. E da qui anche il titolo di questa rassegna, sì. Perché in qualche modo si osa, no, presentare al pubblico lavori che sono ancora in creazione, però credo che sia molto interessante avere la possibilità di conoscere un lavoro che si sta costruendo, e soprattutto al Dom le residenze sono una parte proprio integrante della progettualità che viene proposta da quando il Dom ha aperto. Quindi abbiamo ospitato negli anni tantissimi artisti di valore nazionale e internazionale che si sono anche confrontati con il territorio del Pilastro e hanno poi mostrato i loro lavori. E dal 2011 sono state realizzate più di 30 residenze creative, per cui un lavoro, sì, insomma, che voglio dire, bello corposo, per un'importanza periferica che diventa quanto mai centrale per quanto riguarda laminarie Dom, la cupola del pilastro, e un'attenzione, come ho detto, nelle periferie, che è indubbiamente valore aggiunto per la crescita grazie all'arte, al teatro, alla cultura, alla musica, indispensabili per mettere un riflettore oltremodo importante sarebbe all'interno di ciò che magari nella nostra quotidianità abbiamo sottovalutato. No, tutt'altro, è foriero invece di ispirazione, crescita e diffusione poi per il pubblico di contenuti curiosi per osare in una crescita grazie a queste residenze creative. Residenze creative, confermo appunto quello che già ha aggiunto Bruna, che nel portare attenzione di uno sviluppo di lavoro per poi coinvolgere il pubblico in tutto ciò è veramente molto importante per capire quello che vi è nella struttura di uno spettacolo o di una rappresentazione. Parliamo un po' della sede, anche se il nostro pubblico ovviamente conosce le cupole del Pilastro, però possiamo dare qualche indicazione ulteriore, Bruna? Sì, la cupola del Pilastro è situata in via Panzini, al Pilastro, appunto nel cuore del Pilastro, fa parte della prima parte degli edifici che sono stati costruiti, del primo lotto, diciamo, degli edifici che sono stati costruiti proprio per questo rione, quindi è stato edificato intorno agli anni 70. Ha una caratteristica, diciamo, unica, perché è quella di essere una vera e propria cupola appoggiata a terra, costruita con un sistema di Michel, un architetto che appunto nella nostra regione, ma non solo, ha costruito diversi edifici che hanno questa caratteristica. Ha un diametro di 20 metri, quindi uno spazio in realtà abbastanza grande, e ha ospitato appunto nel tempo tantissimi artisti, alcuni, come appunto dicevi tu, che si sono soffermati per lungo tempo all'interno della cupola per realizzare i propri lavori, ma anche artisti che si sono soffermati anche solo pochi giorni. L'importante è appunto che questa programmazione, che continuiamo a proporre con grande tenacia, credo, all'interno di questo rione, sia in costante dialogo con i cittadini e le cittadine che abitano al Pilastro, ma anche con le più importanti istituzioni culturali della città, per creare un continuo dialogo tra la periferia e il centro. Sì, in questo caso, per esempio, abbiamo appunto il Teatro Comunale di Bologna, che esce dalle mura e porta i suoi musicisti all'interno del Dom. Inizio ufficiale, allora, è veramente un last minute questo, perché mi pare oggi pomeriggio. Sì, sì, sì, sì, comincia l'apertura al pubblico alle ore 21, tutto ciò che verrà proposto alle ore 21, che appunto è sia la presentazione delle musiche che lo spettacolo di Mirella Mastronardi, è a prenotazione obbligatoria. E a 23 invece ospiteremo il lavoro di Elena Galeotti, anche questo a prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni le trovate sul sito di Laminarie, che è laminarie.it, e per prenotare si può chiamare lo 051 6242160 o altrimenti scrivere a info@laminarie.it. Direi che abbiamo detto tutto, seppur in maniera sintetica, e io ti ringrazio tantissimo. Ti auguro una buona giornata e a presto. A presto. Grazie. Ciao. Osiamo. Presto. Osiamo. Ciao. Certamente. A presto. Lines, lines around the block, oh lines. Now the clock is striking eight. Walking, sit down. Previews of the coming show. Now the movie's starting, oh. The movie's starting kinda slow, but it'll get better soon. Oh, here's a scene with these two, and he's gonna get her love. He's gonna tell her, she's gonna tell him. Breve in mostra, la rubrica del giovedì, quindi restate in frequenza. L'esposizione è stata presentata ieri al Mambo e ne daremo approfondimento a breve nella rubrica Regola d'arte dei 103.1. A tra poco.